Ho pensieri come tsunami, intrecciati origami, non son bravo a creare legami. Vedo una troia, vorrei che mi ami, sì. Vedo una troia, vorrei che mi ami, sì. Giuro. Itto così forte perché sono di Milano, ma ancora più forte perché sono di Quarto Giaro. La mia voce non ha peso, situazione bella, peso. Non peso le parole con la bilancia, ma con il bilancino, sì. Non conto le ore, no, il tempo è relativo, sì. Non sono impulsivo, no, no, io non scarrello. Ma sono uomo da quando sono pischello. Da quando mia madre mi ricordava dell'ombrello. Non sai cosa vuol dire essere un fuori classe. Forse perché ti sbattevano fuori dalla classe. Son sempre stato diligente, focus sul mio futuro. In un modo o nell'altro farò qualcosa di grande. Il destino lo scrivo io e chi non ci sale sopra ora con me non ci salirà più, è fottuto. Mi sento Noè, deciderò il mio futuro, sono il mio re. Metti magna il mio cognome, il mio non è un regno ma un cazzo d'impero così grande. Creo il quarto Reich, scopo sta troia così forte, urla Dio, Adonai. Scopo sta troia così forte, urla Dio, Adonai.